America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, buona Pasquetta, buona festa sui prati. Festa sui prati che tra l'altro in America non c'è, perché la Pasquetta non è festeggiata come da noi. E dunque, passando dalle feste sui prati in Italia a una storia americana, vi porto una notizia che è un po' allarmante, che dovrebbe farci riflettere molto. Sentiamo il governatore Jerry Brown, governatore della California, alcuni giorni fa, subito prima del fine settimana. As Californians, we have to pull together and save water in every way we can. Ecco, Brown dice: le persone dovrebbero capire che viviamo in un'epoca nuova. L'idea del prato perfetto che riceve tanta acqua ogni giorno non sarà che un ricordo del passato. Beh, devo dire una dichiarazione allarmante che il governatore ha fatto. Perché? Perché da 3 anni consecutivi vi sono piogge nevicate molto al di sotto della media in California, al punto che, alla luce della difficoltà a reperire l'acqua, la California si rifornisce d'acqua attraverso tubature, si rifornisce d'acqua per esempio dalla Sierra Nevada, come noi compriamo il petrolio dalla Russia, gli oleodotti ce lo portano, ecco, la California si rifornisce d'acqua da fornitori esterni, perché non ha acqua a sufficienza. Comunque, nelle stesse condizioni si trovano il Texas e l'Oklahoma. E qual è il risultato di questa situazione? Che in California il prezzo della frutta e verdura, ha detto Brown, è aumentato del 6%. E per quello che è successo in Texas e Oklahoma, è aumentato invece il costo della carne fra il 9% e il 10%. Dunque, una situazione difficile, insostenibile. Io devo dirvi, ho molti amici che vivono in California, che vivono a Los Angeles, dove il problema è un pochettino più forte. E beh, sono molto consci di questo problema dell'acqua. Chiudono la doccia se si devono insaponare, oppure se si lavano i denti, di nuovo chiudono il rubinetto fino a quando non hanno bisogno dell'acqua per sciacquarsi la bocca. Ecco, a questo punto però la situazione è cambiata. Perché? Perché Brown ha annunciato per la prima volta delle limitazioni ufficiali e legali per il consumo dell'acqua. La nuova legge californiana dice che l'uso idrico dovrà essere ridotto del 25% nelle città e nelle cittadine di tutto lo Stato. Ecco, uno stato d'emergenza era già stato proclamato in passato, ma mai con misure così stringenti, perché vi dicevo, sulle montagne la neve è ai livelli minimi da quando si tiene una registrazione delle nevicate, e quando nei prossimi mesi la neve si scioglierà, quello che hanno concluso gli esperti è che i rifornimenti idrici saranno molto molto al di sotto di quello che succedeva non solo nella media, ma soprattutto anche rispetto all'anno scorso e l'anno prima, che erano già stati anni difficili. Queste nuove leggi, queste nuove regole riguarderanno tutti i campi universitari, i cimiteri, i campi da golf. Tutti dovranno tagliare questi consumi d'acqua. La cosa naturalmente è stata sensazione non soltanto in California, ma poi in tutta America, perché che succederà se il problema californiano diventa un problema nazionale? Brown ha anche lanciato in marzo un pacchetto di misure di emergenza da $1 miliardo per cercare di far fronte a questo problema della siccità. E con questi soldi si potranno realizzare i progetti idrici, si darà sostegno alle comunità che stanno soffrendo. Ecco, un'altra curiosità, sempre di queste regole: c'è un divieto assoluto di innaffiare il prato nelle 48 ore successive a una giornata di pioggia, oppure di servire acqua corrente nei ristoranti a meno che non sia richiesta dai clienti. Beh, questa forse è una buona notizia per la San Pellegrino, che vende molto bene in America e in California. Ecco, ma il problema, per questo ve ne parlo, il problema non è soltanto americano o californiano, che è lo stato che soffre di più. Ci sono delle stime dell'ONU che ci dicono che a causa del global warming entro il 2025 i 2/3 della popolazione mondiale potrebbero trovarsi in situazioni di siccità simili a quelle californiane, se non addirittura peggiori. Ecco, pensate che questo avviene con una popolazione in crescita, e per cui per il 2050 le stime dell'ONU prevedono un aumento globale del 40% del consumo d'acqua. Dunque, in prospettiva, il problema è molto serio. Che cosa si sta facendo? Beh, sentiamo, perché ci sono vari personaggi che si danno da fare, cercano di rispondere al problema andando direttamente alla radice, e cioè cercando di combattere quello che è il degrado ecologico. Partiamo con il principe Carlo d'Inghilterra. But all of the world's cars, planes and ships put together, we must act now. Future generations are depending on us. Ecco, il principe Carlo dice: cerchiamo di preservare la foresta pluviale per tutti noi. Dobbiamo agire adesso, le generazioni future dipendono da quello che facciamo noi adesso. E devo dire, il principe Carlo si è dato molto da fare, ha viaggiato in Venezuela con un gruppo che avevo seguito abbastanza da vicino per visitare queste rainforest. È apparso in un video del 2009 con i figli Harry e William e con attori, con Harrison Ford, con personaggi molto importanti sul piano globale, dal Dalai Lama a personaggi sportivi conosciuti come Pelé e molti altri. Ed è la prima volta che un membro della famiglia reale inglese appare in un video diffuso su YouTube e MySpace. Oltretutto, proprio per rendere la cosa più interessante, il principe Carlo appare di fianco a un pupazzo animato a forma di rana, e la rana è l'animale simbolo delle foreste tropicali. C'è il Rainforest Project, che è questa associazione fondata dal principe Carlo, che si preoccupa della salvaguardia delle foreste tropicali. Che cosa vuol fare il principe Carlo? Vuole creare una comunità online per chiedere un'azione urgente in difesa delle foreste tropicali, senza la quale, dice, perderemo sicuramente la battaglia contro la catastrofe del cambiamento climatico. Cosa succede? La foresta pluviale è fondamentale per le piogge, ma l'industrializzazione sta portando a una riduzione molto importante di queste foreste millenarie che avevano creato un ecosistema fondamentale, indispensabile per il mondo intero. Pensate che il nostro pianeta era coperto fino a non troppi anni fa per il 14% da grandi foreste pluviali. Oggi questa percentuale è più che dimezzata, siamo scesi al 6%, e quindi la situazione è drammatica, e per questo se ne stanno occupando molti grandi personaggi conosciuti dal grande pubblico. Partiamo da Sting, il grande musicista, ha creato la Rainforest Foundation, pensate, addirittura dal 1989, e fece poi il primo concerto di beneficenza nel 2010 con Lady Gaga, con Elton John, e tutti i proventi di questo concerto sono andati alla fondazione. Ma abbiamo una gran quantità di altri casi, ve li racconto, ve li dico, perché bisogna che tutti noi facciamo qualche cosa per le foreste tropicali o comunque per il problema dell'acqua. Marion Cotillard, per esempio, è stata protagonista di un documentario web girato da Greenpeace, un documentario girato in Congo sulla devastazione delle foreste pluviali in Africa. Lily Allen nel 2010 ha visitato l'Amazzonia col WWF per aiutare la conservazione della foresta pluviale locale. Avrete visto decine di foto di come la foresta dell'Amazzonia venne distrutta per lo sviluppo industriale. Richard Branson della Virgin, il fondatore della Virgin Air, ha visitato una gran quantità di foreste pluviali, inclusa quella del Costa Rica, di Bali, e sostiene tra l'altro la Rainforest Project del principe Carlo d'Inghilterra, che si dedica molto al problema. È anche James Cameron, regista di Titanic, e lui, come dire, ha cercato un approccio diverso per salvare la foresta pluviale e il mondo, perché dobbiamo esserne coscienti: se non salviamo la foresta pluviale, il mondo davvero sarà in difficoltà. E come ha fatto? Beh, ha cercato di sensibilizzare tutti col suo grandissimo film Avatar, che è ambientato appunto in una foresta pluviale brasiliana, e questo film è una metafora della lotta dei popoli indigeni contro l'industrializzazione, la commercializzazione, la costruzione, contro il cemento che arriva. The ocean covers 71% of the planet, and 65% of that ocean is in international waters. Ecco, Ghislaine Maxwell l'avevo intervistata qualche tempo fa per un altro progetto legato alle acque, il suo progetto si chiama Terra Mar. La preoccupazione della Maxwell è di creare una struttura che consenta di proteggere gli ecosistemi oceanici, che poi sono strettamente legati ovviamente ai cicli delle piogge. Pensate, la Maxwell è una subacquea professionista. Il suo progetto Terra Mar vuole creare, come dire, uno stato delle acque, perché quando si va al di fuori delle acque territoriali, beh, gli oceani diventano un bene comune, sono un bene dell'umanità, sono un bene di tutti noi, eppure non appartengono a nessuno e dunque vengono inquinati con detriti, con spazzatura, e non sono protetti. L'idea della Maxwell è quella di dare uno stato giuridico agli oceani, di modo che possano essere protetti e tutelati come bene comune dell'umanità sotto la Carta delle Nazioni Unite. When water will be more important than oil. Mark my words. Ecco, Alfred Tauban. Alfred Tauban l'avevo incontrato a Detroit l'anno scorso. Da alcuni è considerato il fondatore dei malls, di questi grandi shopping center americani. Un uomo straordinario di oltre 90 anni. E alla fine di questa nostra chiacchierata parlavamo di Detroit, perché io stavo facendo un'inchiesta sulla città. Si stava riprendendo, non si stava riprendendo. E lui è di Detroit e adora Detroit. E mi ha detto questo, che mi ha molto colpito. Ha detto: questa città è la mia casa e credo nel suo futuro. Il Michigan è unico, siede sull'acqua, a disposizione più riserve d'acqua dolce di qualunque altro stato o paese del mondo. In quest'area del Michigan abbiamo il 24% dell'acqua dolce mondiale e verrà un giorno in cui l'acqua sarà più importante del petrolio. C'è un tale bisogno di acqua dolce nel manifatturiero che le industrie cominceranno a costruire degli impianti qui, sulle coste dei nostri grandi laghi. Ancora non lo hanno capito, ma quando lo capiranno, torneranno tutti qui a Detroit. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di siccità, di piogge e dunque, come dire, ispiriamoci ai Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Someone told me long. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Buona Pasquetta, goodbye and get going!